Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se dovessi dire una parola che per me definisce la sinistra nel 2014 in Italia, è la parola opportunità. E per voi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo naturalmente era Renzi alla direzione del PD, direzione nazionale del PD che si è tenuta oggi, dove si discuteva tra i vari temi anche di che modello, di che forma deve avere il partito. E intanto che ci si chiede, soprattutto poi dell'avvento di Renzi, che cosa sia effettivamente la sinistra, un partito di sinistra, Renzi ha detto che la sinistra è opportunità. E secondo voi, vedo alcuni vostri messaggi già sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure al 349-238-6666, lo sapete tutte le sere, più o meno... Effetto Notte c'è tutte le sere, vi lancio un argomento che potete, su cui potete esprimere le vostre opinioni, le vostre riflessioni, sia attraverso la pagina di Effetto Notte sia al 349-238-6666, in questo caso con gli sms. E poi c'è un'altra dichiarazione importante, che è quella di Grillo oggi a proposito dei clandestini. Ha detto: vanno rispediti a casa e per i migranti ci vuole una visita medica obbligatoria. Che ne pensate anche di questa dichiarazione di Grillo, che già si dice avanza col pugno duro dopo aver espulso 4 dissidenti tra gli attivisti nella kermesse che si è tenuta al Circo Massimo? E questa è l'ultima dichiarazione: che i clandestini vanno rispediti a casa per i migranti, visita medica obbligatoria. Quindi da una parte Renzi sul PD e sulla sinistra, Grillo sui clandestini. Voi esprimete le vostre opinioni, io intanto vi racconto in sintesi la giornata. Lotta all'ISIS, svolta della Turchia, Ankara concede il passaggio alle forze curde irachene per difendere la città di Kobani. La direzione del PD, Renzi dice venite alla Leopolda, non è una struttura parallela, e afferma la sinistra è opportunità. È Movimento 5 Stelle, linea dura di Beppe Grillo che ha espulso i contestatori grillini dal Circo Massimo. Ebola, nessun caso da 42 giorni in Nigeria, che è libera quindi dalla trasmissione del virus, e l'Unione Europea punta intanto a creare la figura di un coordinatore unico. Il rapporto sul sistema sanitario nazionale, troppi ospedali sotto la soglia di sicurezza, forti le differenze fra le regioni. Spese pazze in Piemonte, imputazione coatta per 2 assessori, ma il presidente Chiamparino assicura usciranno a testa alta. Un nuovo femminicidio, a Milano strangola la fidanzata, poi confessa, lei aveva subito minacce, botte e un accoltellamento. Gli effetti del cambiamento climatico, settembre è stato il mese più caldo della Terra degli ultimi 130 anni. Partiamo quindi dalla politica, che è ricca anche oggi, anche in questi giorni, con la direzione del PD, di cui appunto parleremo tra poco. Sentiamo giusto un passaggio del segretario, oltre che presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Su questi 5 temi che ricordavo all'inizio, mi dite uno che è sicuro di dire che sulla questione Siria-Iraq o sulla questione Libia uno tira fuori dalla soluzione? Io sono anche un esperto di Mike Buongiorno, ma dalla soluzione è alla ruota della fortuna, non è in politica. Insomma, criticava il fatto, magari gli si contestava di non trovare delle soluzioni su certi temi. Ne parleremo, ci occuperemo anche di Grillo, come vi dicevo, con le ultime dichiarazioni a proposito di clandestini. Ha detto vanno rispediti a casa, solo i profughi vanno accolti, ma per tutti ci vuole la visita medica obbligatoria. Lo stesso leader del Movimento 5 Stelle nella manifestazione al Circo Massimo aveva espulso 4 contestatori grillini durante appunto il secondo giorno della kermesse romana del movimento. Erano saliti sul palco per protestare contro la mancanza di trasparenza all'interno del partito. Si chiamano Giorgio, Orazio, Pier Francesco e Daniele, sono di Roma ed erano militanti del Movimento 5 Stelle. Erano perché da qualche ora non lo sono più. L'annuncio della loro espulsione è arrivato dal blog di Beppe Grillo. Hanno approfittato del loro ruolo. I 4 sono fuori dal movimento. Il ruolo in questione è quello di responsabili della sicurezza alla 3 giorni di raduno grillino al Circo Massimo a Roma. Gli attivisti sono saliti sul palco della kermesse per protestare contro la mancanza di trasparenza all'interno del movimento e hanno mostrato uno striscione giallo con la scritta hashtag Occupai Palco. La notizia delle 4 espulsioni ha scatenato più fronti polemici. Il premier Matteo Renzi definisce imbarazzante la scelta del Movimento 5 Stelle, mentre dalla rete c'è chi parla di epurazioni sommarie. Anche i contestatori fanno sentire la loro voce. Nessuno ci potrà mai togliere la maglia di attivista del movimento in cui crediamo, ma questi abusi commessi da persone invisibili ci addolorano. Federico Fumagalli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora le novità nell'inchiesta sui rimborsi facili della regione Piemonte. 4 condanne, 14 patteggiamenti e 24 rinvii a giudizio, tra cui quello dell'ex governatore Roberto Cota, che domani sarà in aula. Così aveva deciso quest'estate il giudice nell'ambito dell'inchiesta partita nel 2012 sui rimborsi facili della regione Piemonte. Oggi, cioè circa 3 mesi dopo, è arrivato il verdetto sulle richieste di archiviazione. 6 sono state accolte, 10 bocciate. Tra le prime quella di Mercedes Bresso, eurodeputata PD, e di Gianna Pentenero, assessore al lavoro e all'istruzione dell'attuale giunta. Restano invece coinvolti nella vicenda giudiziaria i 2 assessori regionali Aldo Reschigna e Monica Cerutti, che dovranno affrontare l'udienza preliminare. Sentiamo le loro reazioni. Io non ho utilizzato un euro per scopi personali delle risorse del gruppo. In questo momento questo mi dà sufficienza forza morale per affrontare questa situazione. Sto vivendo un momento molto difficile perché credo che mettere in dubbio la correttezza e l'onestà sia per un politico la cosa più brutta. E in attesa del giudizio, Sergio Chiamparino ha confermato ai suoi la piena fiducia. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto, mentre c'è attesa per il testo definitivo della legge di stabilità, rimane la contrarietà delle regioni. Sono arrabbiate, ma gli passerà, aveva detto ieri Renzi commentando lo scontro con le regioni sulla legge di stabilità. Ma per adesso l'arrabbiatura resta, e come. Nella giornata in cui il provvedimento approda al Colle arriva infatti un nuovo attacco da parte dei governatori. Il presidente della conferenza delle regioni Chiamparino chiarisce: non ci rifiutiamo di fare tagli, ma questi devono essere compatibili con l'erogazione dei servizi, e punta il dito sui ministeri, facciano la loro parte. Non sia una legge di stupidità, ironizza invece il governatore lombardo Maroni. Ma il premier Renzi deve vedersela anche con i malumori della minoranza interna. Oggi la direzione del PD si interroga sul futuro del partito e sulle prospettive per poter mantenere quel 49% delle europee. Un appuntamento che cade a pochi giorni dalla 5ª edizione della Leopolda, mentre quasi in contemporanea alcuni esponenti della minoranza interna saranno a Roma alla manifestazione della CGIL contro il Jobs Act. Ma da Renzi arriva un invito all'unità. Non possiamo diventare né un comitato elettorale né un club di anarchici. Anarchici, pensatori, liberi pensatori, dove ognuno fa come gli pare. Ma Cuperlo lo attacca e lo accusa di voler fare con la Leopolda un partito parallelo. Io te lo chiedo qui, che cos'è la Leopolda? Io leggo che dietro a quella sigla c'è una fondazione che ha raccolto poco meno di 2 milioni di euro, 300.000 serviranno a pagare l'evento del weekend. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La CGIL si prepara alla manifestazione contro la riforma del lavoro e le politiche economiche del governo in programma sabato a Roma, a Piazza San Giovanni. Anni, secondo un sondaggio realizzato da Tecne, potrebbero arrivare oltre 1 milione di persone. Sul numero di partecipanti non si sbilancia in previsioni la leader della CGIL Camusso, che presentando la manifestazione oggi è tornata a criticare la legge di stabilità. Il dato che ne emerge, vedo che ormai c'è anche qualche commentatore che lo nota, è che siamo di fronte a una riduzione ulteriore degli investimenti. E senza investimenti tutti i ragionamenti che vengono fatti sul lavoro sono tutti straordinariamente aleatori e senza grandi prospettive. Ad alzare i toni contro la legge di stabilità e anche la UIL, il segretario generale aggiunto Barbagallo definisce inaccettabile il nuovo blocco del contratto degli statali e minaccia di non tenere più conto dei limiti previsti per gli scioperi nel settore pubblico. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Roma. E spostiamoci adesso su questioni economico-finanziarie europee. La Banca Centrale Europea comincia oggi a comprare covered bond, ma le borse reagiscono temporeggiando. Tornano a calare le borse europee nel giorno in cui la BCE fa partire il programma di acquisto di obbligazioni garantite. Piazza Affari, che la settimana scorsa ha perso più degli altri, ieri ha ceduto lo 0,86%. In rosso anche Parigi, Londra e Francoforte. Unica notizia positiva oggi l'ha fatta registrare la borsa giapponese, che ha guadagnato il 3,98%. Tra i titoli italiani, in rosso tutto il comparto bancario, con MPS sotto pressione in vista dell'esito degli stress test BCE, che saranno resi noti domenica prossima. Ieri la BCE ha iniziato a comprare obbligazioni bancarie, il cui rimborso, in caso di fallimento della banca, è garantito da una serie di crediti ad hoc. Secondo alcune indicazioni date dal presidente della BCE Mario Draghi, l'intenzione di Eurotower è di spendere circa 1.000 miliardi, anche se non è ancora chiaro in che tempi. Intanto nei mercati si registra un certo nervosismo in attesa di conoscere l'esito domenica dell'esame a cui l'Eurotower ha sottoposto 130 banche europee. In presenza di molte bocciature, infatti, il test potrebbe avere ripercussioni negative sui listini. Nicola Scevola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Estero, dopo le critiche per non essersi mossa per fermare l'avanzata dell'ISIS a Kobane, la Turchia cambia linea, non bloccherà più il confine con la Siria, anzi aiuterà i curdi. Di questo parleremo poi con un inviato speciale per capire meglio il perché di questa svolta della Turchia. E adesso invece la cronaca, tornando sulle questioni italiane, con l'ennesimo femminicidio. C'erano liti frequenti nell'appartamento al quarto piano di Via della Commenda a Milano, dove ieri pomeriggio il 42enne Gianluca Gerardo Maggioncalda ha ucciso e strangolando la fidanzata Sonia Trimboli, sua coetanea. A dirlo sono alcuni vicini che c'erano continuamente questi litigi, e poi anche il padre della vittima. Oggi, adesso, dopo che l'uomo ha confessato, ha detto l'aveva picchiata più volte, aveva tentato anche già di strangolarla. E poi la vicenda di Iara. Il Tribunale del Riesame di Brescia ha confermato il carcere per Massimo Giuseppe Bossetti, il muratore arrestato per l'omicidio di Iara Gambirasio. E adesso la tragedia avvenuta oggi nel carcere di Ascoli Piceno. Era accusato del duplice omicidio di due carpentieri kosovari, l'imprenditore 48enne di Fermo Gianluca Ciferri, che si è tolto la vita impiccandosi nel bagno della sua cella nel carcere di Ascoli Piceno. Il 15 settembre scorso aveva ucciso due suoi ex operai che erano andati a chiedergli i loro stipendi arretrati, circa 20.000 euro richiesti più volte anche attraverso un contenzioso curato dal sindacato. Ciferri, appassionato d'armi, aveva raccontato di essere corso a prendere una pistola che teneva in garage quando si è visto minacciato dai due kosovari armati di picozza e di aver sparato perché in preda alla paura. Quando si è impiccato, l'imprenditore edile non era solo in cella, ma il suo compagno lo ha trovato verso le 4 di notte già morto. Un'inchiesta interna al carcere verrà disposta anche dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria delle Marche, anche se Ciferri non aveva mai dato segnali che facessero temere un gesto autolesionista. Per questo era rinchiuso in una cella comune e non era sorvegliato a vista. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo del prefetto di Roma, Pecoraro, che ha inviato al Campidoglio una richiesta formale di cancellazione degli atti di trascrizione di 16 nozze gay firmati sabato dal sindaco Marino. Il prefetto nella richiesta non ha indicato un tempo massimo per la cancellazione, chiedendo che ciò comunque avvenga in tempi rapidi. Se il sindaco di Roma non ottempererà l'invito formale della prefettura, seguirà l'attivazione dell'iter di annullamento delle trascrizioni. Quindi continuano queste polemiche sulla trascrizione delle unioni omosessuali avvenute all'estero, poi nei comuni italiani. Per chiudere, sappiate che settembre 2014, forse qualcuno non se n'è accorto, neanch'io per esempio, è stato il mese più caldo nel pianeta dall'inizio delle registrazioni delle temperature nel 1880, lo ha annunciato l'agenzia americana che si occupa di oceani e atmosfera. Quindi è stato il più caldo settembre da 130 anni a questa parte. Intanto vedo moltissimi vostri messaggi, sia gli sms al 349-238-6666, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito sia della dichiarazione di Renzi, che ha detto, se dovessi dire qual è la parola che definisce oggi la sinistra, è opportunità, sia sulle parole di Grillo rispetto ai clandestini. Ne leggo una e una. Per esempio dice Corrado, voleva dire opportunismo, non opportunità, nel suo caso è perfetta. E poi invece per quanto riguarda Grillo, Luca dice, direi che è buon senso dire che i clandestini vanno rispediti indietro e devono affrontare la visita medica obbligatoria. Aggiungo che troppe mafie sfruttano i migranti anche grazie al buonismo ingenuo e calcolato che sia. Continuate con le vostre riflessioni, con le vostre opinioni. Tra poco poi vi racconterò in modo più approfondito i fatti insieme agli ospiti. Intanto viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi subito qui, leggevo un altro messaggio tra i tantissimi che stanno arrivando, sia al 349-238-6666, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Un altro, a proposito della definizione di Renzi di la sinistra è opportunità, dice la sinistra è populismo e va avanti a botte da 80 euro. Adesso vi riassumo brevemente le notizie della giornata e poi affronteremo la situazione, l'attualità politica. Renzi alla direzione del PD, scintille con la minoranza, dice venite anche voi alla Leopolda, ma Cupero dice è un partito parallelo. E poi Renzi fa sapere che vuole aprire anche a Scelta Civica e a SEL, per i transfughi naturalmente. E poi Grillo espelle i dissidenti e sui immigrati clandestini, dice a casa, arriva un parlamentare polacco per il gruppo europeo e rinasce quindi l'Eurogruppo con l'UKIP. La svolta della Turchia, sì, è Peshmerga, cioè i combattenti curdi, i turchi lo dicono per passare e difendere la città di Kobane. Poi c'è l'appello del Papa che dice che bisogna intervenire contro il terrorismo e i genocidi. Ospedali italiani malati, in troppi sotto la soglia di sicurezza, pochi parti in uno su quattro, forti differenze fra le regioni. Gay, il prefetto chiede a Marino la cancellazione degli atti, un invito formale senza scadenza ma deve avvenire in tempi rapidi. E poi questa notizia che viene da Parigi, una turista con velo in prima fila cacciata all'Opera di Parigi, bufera nella città un coro di protesta, la legge vieta il burka e il niqab in pubblico. Quindi dicevamo di queste dichiarazioni da una parte della direzione del PD e quello che ha detto Renzi, gli attacchi della minoranza e poi il duro attacco di Grillo sui clandestini, la dichiarazione, insomma, lui dice per prudenza anche questa visita obbligatoria sanitaria e poi l'espulsione dei quattro dissidenti di cui ha informato oggi sul suo blog. Ne parlerei con Sofia Ventura, che saluto. Benvenuta, Sofia. Buonasera. Nota notissima politologa. Senti, allora, oggi direzione nazionale del PD, però ti voglio chiedere prima se Renzi ti è piaciuto da Barbara D'Urso domenica, ieri. Beh, diciamo che io non credo di essere il target al quale lui si rivolgeva. Che ne sai? Credo. Perché? Ipotizzo. Beh, innanzitutto perché io non guardo mai Canale 5, Barbara D'Urso, cioè non guardo quel genere di trasmissione perché non mi piace, quindi appartengo a quelle persone che non amano quel tipo di trasmissione e diciamo non sono fan di Barbara D'Urso, quindi lui chiaramente si rivolgeva a un pubblico che guarda che quel tipo di trasmissioni. Esatto. Poi in generale, anche se su questo però avrei qualcosa da dire, perché in realtà no, non mi è piaciuto comunque, ovviamente per il mio gusto personale, poi comprendo ovviamente il senso del tipo di intervista che ha fatto, no? Quindi sono due dimensioni diverse, quello che mi piace e quello che posso capire, anche se c'è una cosa interessante per capire la modalità comunicativa di Renzi, e cioè il fatto che ovviamente lì lui ha fatto un certo tipo di performance molto adatta a un certo tipo di pubblico, ma il suo linguaggio e il modo anche di esprimersi non era molto diverso da quello che utilizza sempre, anche in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Questo è una cosa che sto osservando da molto tempo. Quindi è coerente o non sa cambiare i codici comunicativi a seconda della situazione? Cioè, secondo me interpreta in maniera un po' banale quello che è appunto quelli che sono gli imperativi della comunicazione, cioè la comunicazione, questo lo sanno tutti i grandi leader in giro per il mondo, richiede comunque una capacità di farsi comprendere, di essere efficaci, di sollevare diciamo anche le emozioni, però la si può coniugare in modi diversi a seconda dei pubblici e poi non necessariamente rivolgendosi all'uditorio come se l'uditorio fosse composto di bambini di 5 anni. Lui tendenzialmente parla a tutti, cioè ai giornalisti in conferenza stampa a Palazzo Chigi, così come alla casalinga di Voghera che guarda Barbara D'Urso, come se parlasse a bambini di 5 anni. Questa è una cosa che ho notato da tempo, diciamo, nella sua comunicazione. Poi ovviamente la performance che ha fatto ieri a Canale 5 ha delle sue particolarità, perché ovviamente lì lui andava a raccontare in una maniera molto semplice, semplicistica e ovviamente pro domo sua la legge di stabilità. Comunque, audience altissima ieri, nei momenti di maggior picco oltre i 2 milioni è andato, quindi evidentemente anche insomma chiamato nei vari talk o nei vari programmi al di là della loro natura, anche perché diciamo porta sicuramente ascolto, però a proposito di ascoltare, adesso ascoltiamo tra pochissimo Renzi che cosa ha detto oggi a proposito della sinistra. Oggi c'è stata la direzione nazionale del PD in cui insomma si sono dibattuti diversi temi, ma principalmente anche la natura e il futuro del Partito Democratico, e Renzi a proposito di che cosa sia la sinistra oggi così ha detto: se dovessi dire una parola che per me definisce la sinistra nel 2014 in Italia è la parola opportunità. Contro gli opportunismi, contro le rendite, è di sinistra per me un partito che favorisce l'opportunità, libera il talento, crea le occasioni, lascia lo spazio per provarci a chi vuole provarci. Questo per me è la sinistra oggi. Questo è per Renzi e la sinistra oggi. Leggevo tanti messaggi, adesso ti leggo Sofia, poi torniamo a chiacchierarne, sul 349-238-6666 SMS, e poi leggo anche qualcosa dalla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Cristiano da Lecce dice: sinistra e ascolto, Mani Tese, riscatto, cammino comune, cultura ma anche rigore, piglio, intransigenza. Domenico: la sinistra dovrebbe essere pari opportunità, non per i soliti noti. Luca da Milano: né sinistra né destra hanno più alcun senso, oggi esiste solo ciò che fa bene al paese, ciò che va contro i nostri interessi. Viva il buon senso di Renzi, spazziamo via sindacati, Forza Italia e i Landini. Poi ce ne sono molti altri che tra poco ancora leggo, Sofia, però al di là che spesso si sta dibattendo negli ultimi anni, aveva iniziato pure Gaber, no, a dire che né destra né sinistra hanno senso, bisogna fare l'interesse del paese. Che ne pensi tu? E anche cosa ne pensi di quello che ha detto Renzi? Sì, beh, diciamo che queste parole sono un po' il lascito del Renzi della fase 1, no? del Renzi che aveva fatto la sua battaglia per cambiare il Partito Democratico, la sinistra, la rottamazione, echeggiano la visione della terza via, del blairismo, cioè la sinistra che crea appunto le opportunità. E quindi in questo appunto ritrovo il Renzi che inizialmente mi aveva più convinta, diciamo. Il problema è che per fare di una sinistra di governo che davvero crea le opportunità, bisogna avere dei progetti di governo. Su questo, se vogliamo parlarne, io un progetto, diciamo, coerente ancora non lo sto vedendo. Stavo ascoltando prima Chiara Saraceno a 8:30, che appunto nota studiosa sociologa. Sociologa studiosa del welfare state, parlavano ovviamente dell'ultima buttata degli 80 euro questa volta per le mamme, e si diceva ma è una misura che non sta dentro a un progetto di revisione del welfare, è una misura estemporanea, anche i cui, diciamo, parametri, no? A chi viene data, perché viene data, in che misura, non hanno una giustificazione rispetto appunto a un progetto vero e proprio. Quindi questo è il problema, cioè quello che ha detto in direzione è molto condivisibile, a mio avviso, che sono una liberale, quindi ovviamente guardo con favore anche a una visione appunto bleriana della sinistra. Il problema è poi dare concretezza a queste parole, e su questo mi sembra che siamo ancora un po' così titubanti. Prima parlavi di questa misura che ha annunciato poi ieri, no, da Barbara D'Urso, appunto il bonus bebè, che sono 80 euro per i primi 3 anni alle madri, però ancora insomma non chiarissimo e che ha suscitato diverse critiche, polemiche, poi si vedrà se avrà concretezza e in che modo. Ti leggo ancora qualche messaggio. Maurizio dice: con Renzi si vola, sì sì, ma al cimitero prima del tempo, posti di lavoro creati finora, il suo strapagato da stipendio da pantalone, e poi si vende le nostre aziende ai cinesi, ma mi faccia il piacere, diceva Totò. Poi Angela scrive: piuttosto opportunismo anziché opportunità, direi. Anche Roberto lo stesso dice opportunismo. Laura: la sinistra oggi superficialità, apparenza, inutilità. Stefano, tutti molto duri. L'efficacia comunicativa di Renzi sta ulteriormente depistando molta parte dell'opinione pubblica. Personalmente ne apprezzo il ritmo e la sua capacità di incalzare, ma tra i provvedimenti in corso di adozione non ci sono quelli dei quali l'Italia avrebbe una necessità grande. Vale a dire la revoca o il completamento di questo federalismo zoppo distruttivo, una sostanziosa riduzione della pressione fiscale, un intervento deciso sulla burocrazia. Alessandro dice: la parola è destra, nel senso che qui con un altro ascoltatore anche che dice: come fa la sinistra ad avere un leader di destra quale è Renzi? Anche su questo, no? Si è detto spesso che il Berlusconi, figlioccio di Berlusconi, che in realtà non è di sinistra ma di destra. Qual è la tua parola su questo? Ma guarda, su questo in realtà insomma bisogna distinguere diversi aspetti. Io non credo che appunto una sinistra che punti sul merito sia una destra, è una sinistra liberale. Le sinistre possono avere diverse declinazioni, esiste anche una sinistra liberale che è stata per esempio appunto quella di Tony Blair, e quindi su questo appunto, anche sul gioco destra-sinistra, sinceramente non mi appassiono e non vedo il tentativo di cambiare un po' anche, diciamo, le coordinate culturali della sinistra italiana come un tentativo di farne una destra, ma come un tentativo di modernizzarla. Quindi però è anche vero che ci sono dei punti di contatto con Berlusconi che non hanno a che fare col destra e sinistra, ma hanno a che fare con le modalità appunto di comunicare, di raccontare, di raccontarsi, anche se poi tra i due ci sono ovviamente molte differenze, tanto più nella loro storia. Però tornando all'incontro con Barbara D'Urso, per esempio, quando lui ovviamente ha fatto questa uscita, che sarà stata a lungo pensata e riflettuta, del bonus degli 80 euro per le mamme, mi è venuto in mente quella uscita assolutamente magistrale e geniale di Berlusconi nel 2006 nel confronto con Prodi, quando disse: io cancellerò l'IMU della prima casa, avete capito bene, cancellerò l'IMU della prima casa, o l'ICI, all'epoca si chiamava ICI. Sì. Che appunto fu una trovata geniale. Ecco, questa cosa degli 80 euro per le mamme dalla D'Urso mi è parsa, diciamo, molto simile, tanto più che il modo in cui poi l'ha raccontata, ha iniziato a parlare di pannolini, di biberon, ha spiegato come spesso i pannolini, i biberon sono le nonne a pagarli, no? E lì un sacco di nonne sicuramente erano presenti, cioè non solo ovviamente in studio ma tra il pubblico. Quindi stai rispondendo ad Andrea da Montalbano, che dice: chiede alla sua ospite cosa significa pubblico di un certo tipo, espressione che ha usato poc'anzi. Forse si è sentito offeso, Andrea ha pensato che, no, che volesse essere critica. No, è un certo tipo, no, è un segmento di pubblico, cioè è noto che non tutti guardano tutto. ci sono segmenti, cioè ci sono anche degli studi, no? Chi anche fa le trasmissioni, o così come chi lancia un giornale, fa lo studio del proprio target e quindi disegna un profilo. Per cui immagino che il profilo di chi segue la trasmissione pomeridiana di Canale 5 come di Rai 1, che sono appunto queste tradizionali trasmissioni che sopravvivono da decenni, non sia il giovane, per esempio, no? Non è un pubblico giovane, ma dei segmenti appunto particolari che dicevi di pubblico. Senti, probabilmente non è neanche un pubblico con un elevatissimo livello di istruzione, probabilmente, o comunque c'è una percentuale più bassa, ma questo non è che sia un mio pregiudizio. Sono le analisi, sono studi statistici. Senti, sì. Sofia Ventura, poi invece, a proposito del futuro del partito, di quello che è, sai che c'era stata anche la critica di Bersani giorni fa, che diceva ormai non è più un partito di iscritti, c'è stata una diaspora di iscrizioni, è più un partito di elettori, una macchina da consenso, insomma. Sentiamo a questo proposito che cosa ha detto. Anzi, a proposito di questo, era una accusa che di nuovo gli ha rinnovato Gianni Cooper oggi in Direzione, e ha anche attaccato la Leopolda, no? Questa convention con la quale era emerso Renzi qualche anno fa, e che ci sarà di nuovo questo fine settimana. Sentiamo Cooperlo. Io te lo chiedo qui, che cos'è la Leopolda? Io leggo che dietro a quella sigla c'è una fondazione che ha raccolto poco meno di 2 milioni di euro, 300.000 serviranno a pagare l'evento del weekend. Ora, io so che le correnti in questo partito dominano la sua vita interna più o meno dalla nostra nascita, e non mi permetterei mai di rivolgere a te né a nessun altro qui dentro l'appello a non organizzare una parte nel segno di una visione. Però dobbiamo essere chiari tra di noi. Se tu che oggi sei il segretario del partito, costruisci e rafforzi un partito parallelo, dotato di risorse, mezzi, persone, tu scegli nei fatti un particolare modello di partito. E a quel punto noi non andremo verso un partito comunità, seppure ripensato radicalmente nel linguaggio, nelle forme, negli strumenti. Noi andremo verso ciò che forse già oggi siamo, e cioè una confederazione. Questo è il giudizio di Cooper e l'accusa nei confronti di Renzi, che poi ha risposto: ma via, non drammatizziamo, ha detto Renzi sulla Leopolda, è un bel momento di politica, venitici tutti, vieni anche tu. Che ne pensi sinteticamente, Sofia? Beh, devo dire che io, pur non condividendo le molte posizioni politiche, ma io stimo moltissimo Cooper per la sua capacità di analisi e la sua intelligenza, e l'osservazione che ha fatto è assolutamente condivisibile sul piano analitico e sul piano empirico, cioè lui ha detto ciò che è, che poi può piacere o non piacere, ma così è, nel senso che comunque le correnti sono appunto gruppi all'interno di un partito che hanno propri finanziamenti, proprio personale, propri riferimenti, e quindi sicuramente in qualche modo la Leopolda potrebbe essere questo, perché bisogna distinguere la Leopolda della fase, appunto, a cui facevo riferimento prima, della fase di conquista, diciamo così, di sfida, della fase di sfida, aveva un suo significato. Oggi che Renzi è segretario del partito e presidente del Consiglio, ne assume un altro, cioè diventa il gruppo che si sviluppa attorno al segretario e che si distingue dagli altri. Quindi ovviamente Renzi non la può spacciare come un'occasione di unità. È quella cosa lì che ha detto Cooper, poi legittimo che Renzi la voglia, anche se io aggiungerei un altro elemento, proprio anche come evento cambia radicalmente natura, poi adesso lo seguiremo e vedremo effettivamente quello che sarà. Però appunto, se la sua natura in quest'ultima fase diventa più quella di una rappresentazione del potere che non invece quello che era in passato, di una sfida. Senti, ti avrei voluto chiedere di Grillo, ma vedo arrivare molti messaggi, ma è tardissimo. Se sai rispondermi proprio in 30 secondi, Sofia Ventura, per esempio sui clandestini, a parte l'espulsione dei dissidenti che erano saliti sul palco per dire un po' la loro, perché volevano più trasparenza anche nella gerarchia, nella nomenclatura del partito, e poi sui clandestini ha detto che vanno rispediti a casa, per i migranti visita medica obbligatoria. Qualche ascoltatore, nella gran parte dicono che sono cose di buon senso. Aggiungo, dice Luca, che troppe mafie sfruttano i migranti anche grazie al buonismo. Corrado dice: 10 anni in Cina per lavoro, ho dovuto fare 10 visite mediche obbligatorie, una all'anno. Alessandro: lo schema d'ingresso è semplice, lo stesso che usarono gli Stati Uniti con noi. Angela dice: ragionevole e di buon senso, proprio in un telegramma. Ma in un telegramma, appunto, non entro nella questione, perché ci sono alcune cose che possono essere ragionevoli o meno. Il punto è che Grillo fa queste uscite perché comunque sa che trovano molta accoglienza, al di là poi della sensatezza o meno, perché poi una cosa può essere sensata ma dipende molto anche dal modo in cui viene detta e perché viene detta. Lì è chiaro che c'è anche una competizione, tra l'altro in questo momento, con la Lega, e quindi è appunto un'uscita molto politica per competere con Salvini e per solleticare, diciamo, un po' gli umori più popolari. Sofia Ventura, ti ringrazio e ti saluto. Grazie a voi. Ciao. Buona serata. Grazie, buona serata a te. Dobbiamo prenderci subito una pausa perché è tardi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, ve le do brevemente le notizie. Con la lotta all'ISIS e la svolta della Turchia, Ankara concede il passaggio alle forze curde irachene per difendere la città di Kobane. Poi abbiamo parlato molto della direzione del PD oggi e del Movimento 5 Stelle, con la linea dura di Beppe Grillo, che ha espulso i contestatori grillini dal Circo Massimo e attacca i clandestini. Ma adesso è tempo di Europa. Europa 24 notte. Parliamo di Ebola con Sergio Nava, perché anche a livello europeo si stanno prendendo delle decisioni. Sergio, ciao. Sì, ciao Roberta. Sì, oggi riunione dei 28 ministri degli esteri in Lussemburgo. Come sempre l'Europa procede anche in piccoli passi anche sulle emergenze grosse come Ebola, però allora qualcosa è successo, perché c'è l'idea di nominare un coordinatore unico europeo su Ebola che faccia un po' da riferimento. La sua nomina dovrebbe arrivare al vertice europeo di questa settimana a Bruxelles, quindi tra giovedì e venerdì, e c'è soprattutto la pressione britannica per raddoppiare gli stanziamenti. Attualmente l'Europa più o meno si è impegnata più o meno per 500 milioni di euro, David Cameron vorrebbe portare a 1 miliardo di euro il contributo. Poi c'è una questione che sembra secondaria ma in realtà importante, quella almeno decisa dai 28, che è quella del garantire agli operatori, in particolare europei o comunque internazionali, che vanno nei 3 paesi più colpiti da Ebola in Africa occidentale, un'evacuazione in caso di infezione. Cioè chi va sa che nel caso si ammalasse verrebbe portato in un ospedale europeo e curato, come è successo anche già in altri casi. Per cui questo per incentivare, sappiamo bene che i sistemi sanitari dei paesi colpiti da Ebola sono praticamente veramente al collasso, e quindi per incentivare soprattutto volontari o medici ad andare ad aiutare. E c'è anche poi un italiano, che è Agostino Miozzo, che è direttore del centro gestione crisi del Servizio Europeo per Azione Esterna, che attualmente è in Guinea con una missione e sta valutando proprio sul campo con questa missione europea la possibilità di un ulteriore salto di qualità. Non è ben chiaro come, però, operazioni civili e militari dell'Europa in Liberia, Sierra Leone e Guinea. Questo è un po' al momento, Roberta, il quadro di quello che l'Europa sta facendo, intende fare. Sicuramente la notizia più interessante è quella del coordinatore unico. Pensiamo che, o meglio, speriamo che, oltre a coordinare semplicemente, però insomma, dia anche impulso ad azioni concrete, perché l'Europa a volte sembra un po' avvitarsi su questioni un po' di coordinamento e organizzazione, poi sul concretamente le cose sembra un po' più lenta. Allora speriamo che questo coordinatore non solo coordini, ma faccia anche. Così speriamo. Grazie, Sergio. Grazie a voi. Ciao, Sergio. Ciao. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E adesso occupiamoci del livello del nostro sistema sanitario nazionale, ogni tanto per avere il termometro proprio del suo funzionamento, delle sue performance, e lo facciamo attraverso il rapporto Esiti 2014, che è stato presentato proprio oggi e che è stato elaborato da AGENAS, che è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Per conto lo fa del Ministero della Salute e fornisce a livello nazionale valutazioni comparative di efficacia, sicurezza, efficienza, qualità delle cure prodotte nell'ambito appunto del sistema sanitario nazionale. E secondo questo rapporto 2014 le performance del nostro sistema sanitario migliorano, ma le differenze tra le regioni e all'interno delle stesse regioni permangono, come ormai sappiamo. Però ci sono dei dati clamorosi in particolare, ma li chiederemo adesso direttamente a Francesco Bevere, che saluto. Buonasera. Buonasera. Che è direttore generale della AGENAS, che è appunto l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Nazionali, che ha realizzato questo programma nazionale Esiti 2014. Tra i dati più clamorosi, Bevere, mi sembra di vedere questo titolo: un quarto degli ospedali sono sotto la soglia di sicurezza per i parti. È possibile questa cosa in Italia? 1 su 4? Ma non so quale ANSA lei ha letto, quale agenzia in particolare. Un'agenzia dell'ANSA, sì. Non parliamo di sicurezza nel senso più ampio del termine. Noi ci riferiamo, quando parliamo di programma nazionale Esiti, all'efficacia e all'appropriatezza delle prestazioni di assistenza e delle procedure medico-chirurgiche che vengono erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Sì. È chiaro che noi abbiamo degli indicatori, sono circa 129 gli indicatori che vengono utilizzati per poi valutare diciamo i contenuti del programma, e tra questi indicatori vi è anche il numero dei parti. È chiaro che vi sono molte strutture che ancora oggi garantiscono alle partorienti alcune attività chirurgiche non in perfetta sintonia con gli indicatori previsti. Ecco il dato che viene fuori. Per esempio, per fare un esempio, dottor Bevere? Guardi, gli esempi noi non li amiamo moltissimo, perché il nostro diciamo scopo non è quello di fare delle tabelle oppure di fare dei paragoni tra un ospedale e l'altro. Noi diciamo semplicemente che è bene che i cittadini sappiano, no, attraverso infatti l'edizione di questo programma nazionale Esiti viene fuori un quadro sicuramente, come diceva lei, di miglioramento di molte realtà regionali, ma i cittadini devono sapere che al di sotto di alcune soglie, per esempio quando gli ospedali, no, sono molto piccoli, ha sentito, no, quante volte le persone si lamentano perché chiudono gli ospedali, sì, sotto casa propria, no, o nel paese. Perché vengono accorpati poi. E vengono accorpati. Molte volte questo lavoro le regioni lo fanno perché vogliono determinare condizioni di maggiore sicurezza per i propri cittadini. Noi abbiamo infatti osservato in questa edizione di 2014 del programma nazionale Esiti che alcuni livelli di complessità nel trattamento di patologie, ecco, abbastanza diciamo complicate da trattare in piccoli ospedali, aumenta, diciamo, il pericolo per i cittadini quando queste patologie vengono trattate in ospedali di piccole dimensioni. Perché non sono sufficientemente attrezzati, non hanno esperienza personale. Ecco, non sono sufficientemente attrezzati strutturalmente, tecnologicamente, e aggiungiamo anche che talvolta il numero dei casi trattati dalle equip di medici talvolta sono al di sotto delle soglie indicate dagli standard contenuti in un documento del Ministero della Salute approvato proprio il 5 agosto scorso in sede di conferenza Stato-Regione. In una sostanza, quando una persona ha un problema al pancreas, facciamo un esempio pratico così come lei me lo chiedeva prima, e va in una struttura ospedaliera dove c'è una divisione di chirurgia generale, non è detto che in quella divisione di chirurgia generale, in quel reparto, abbiano le abilità e la casistica sufficiente a determinare in sicurezza un intervento chirurgico sul pancreas che è abbastanza complesso. Quindi questo può voler dire, dottor Bevere, che è meglio andare a farsi operare, curare in una struttura grande piuttosto che in una piccola? No, non se ne fa soltanto una questione di dimensioni. In genere per i livelli di complessità sì, la dimensione ha la sua rilevanza. Insomma, un intervento chirurgico complesso è bene farlo eseguire in una struttura che sia dotata, diciamo, di reparti e di settori che possono garantire dall'inizio alla fine la copertura e la sicurezza dell'ammalato. Ma nei casi diciamo proprio di patologie particolari, noi suggeriamo sempre di verificare la casistica e il volume delle attività dei singoli operatori e attraverso i volumi di attività quest'anno anche il programma nazionale Esiti, diciamo, dà qualche indicazione in più. Senta, dottor Bevere, invece qui questo per quanto riguarda la differenza tra strutture ospedaliere, invece mi sembra che sia riconfermata anche quella tra le regioni, no? Siamo sempre nord, sud. Sì, permane ancora, diciamo, una sorta di varietà di atteggiamento ad utilizzare questo programma nazionale Esiti più che come, ecco, un evento occasionale annuale, come invece un momento di riflessione per tutti, perché alcune regioni, sa che bisogna accedere attraverso una password specifica in questo programma nazionale Esiti che è, diciamo, accessibile in questa prima fase soltanto agli addetti ai lavori, e noi abbiamo verificato come per esempio accedono molto di più le regioni del centro nord piuttosto che quelle del centro sud. Questo vuol dire che meno si conoscono, diciamo, le realtà nelle quali si lavora e dove si gestiscono le risorse, meno si è in grado evidentemente di sedersi intorno ad un tavolo, di fare degli audit specifici sulla motivazione per la quale vi sono dei risultati negativi o parzialmente negativi di quella patologia o di quella organizzazione. Se manca questo, purtroppo le regioni non faranno grandi passi avanti, quelle che maggiormente risentono di difficoltà culturali in tal senso. Il nostro compito, quello dell'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali, è proprio quello di incrementare queste attività di audit all'interno degli ospedali e raggiungere, perché no, giocare di anticipo, no? Perché noi desidereremmo avviare presto un programma così come previsto nel Patto per la Salute che ci consentirà un monitoraggio, e lo dovrà fare Agenas assieme alle regioni, sia delle efficienze del sistema sanitario regionale e delle singole aziende sanitarie, sia dei livelli di efficacia clinica. Noi desideriamo individuare degli indicatori, una sorta di allarme, che che ci consentirà di arrivare prima che le situazioni diventino poi croniche, per così dire, e che quindi possano generare difetti di organizzazione, sprechi o ancora peggio difetti di assistenza. Allora, non posso che augurarle buon lavoro, Francesco Bevere, visto che il vostro serve a migliorare, far funzionare meglio il sistema sanitario nazionale. La ringrazio. Grazie a voi. Grazie, buona continuazione. E adesso mi prendo questi ultimi secondi per leggere ancora qualche vostro messaggio. Per esempio, ancora molti scherzano sul fatto, sul gioco di parole, opportunità, ha detto Renzi, sinistra è opportunità oggi, e molti continuano a scrivere opportunismo. Poi Roberto dice addirittura il selfie, si è fatto un selfie con Barbara D'Urso di cui parlavamo, e andando invece sulla questione sulla presa di posizione di Grillo rispetto ai dissidenti espulsi e anche ai clandestini, ancora Floriano dice ha cambiato idea. Giorgio invece scrive: sono d'accordo perché ci deve essere trasparenza e rispettare le leggi e la sicurezza. Direi che ci sentiamo tra poco.